Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Brucia Roma, con i romani. Marino, brucia Roma, Marino, con i cristiani. Che schifo che in Italia non si vota più. Brucia Roma, Marino è stato votato da noi cittadini, soprattutto da noi anziani. Marino ha fatto quello che i 40 anni di sindaci destra sinistra ha chiuso i fori il giorno dopo. Forse sta dando fastidio. Brucia Roma, col Papa Tre. Partito Democratico e loro sì, invece schierati a Moda e che erano vero la fattoria di Orwell, i maiali che stanno in piedi che non fanno vedere niente. Questa è la polizia che noi paghiamo. Se Marino si dovesse candidare con un'altra lista lo voterei, perché non l'ho votato. Cosa ha votato? Grillo, il Movimento 5 Stelle. Brucia Roma, e ce lo sapevamo. Stanno facendo sicuramente due pesi due misure, scaricano Marino per una questione ancora tutta da appurare, la questione degli scontrini. Invece a livello nazionale fanno accordi con un indagato, un condannato come Verdini. Noi altri siamo tanti a sparare. Adesso il popolo di Marino si mobilita. Bella quella signora che dice: ma che in Italia non si vota più? Cara signora, un lunghissimo discorso, un lungo discorso che alle 6.32 del mattino, cari amici di 24 Mattino, magari può apparire un po' poco digeribile, mi rendo conto. Sì, si vota un po' poco, ecco. Si vota un po' poco. Comunque, cari italiani, ieri è arrivato due camion, due tir pieni di carte, faldoni. Ecco, immaginatevi questi due tir, boom, sbattuti lì, frenano. Ecco qua. E che c'era dentro? C'è dentro, dice il Corriere, tutta la storia dei 40.000 alloggi popolari di Roma. Cioè non è informatizzata, un dischetto, una chiavetta, no, due tir di carte. Mentre moriva. E poi dicono che Roma è governabile. Con due tir di carte. Frenata. Ecco, vi consegniamo la storia degli alloggi popolari. Auguri. Attenzione, perché Marino tenta il colpo di coda. È vero, si è dimesso, è vero che ieri ha detto: ma lo avete capito? Questo lo racconta Repubblica, che è un complotto. Il ristoratore che mi accusa lo fa così solo perché gli abbiamo negato i tavolini all'aperto. Ma non gliela fatta, si è dovuto dimettere, ma medita, qualcuno dice, di candidarsi alle primarie del PD. E allora Renzi medita la contromossa. Il lodo Marino. Impedire agli indagati di candidarsi alle primarie. Stia attento, Renzi. Stia attento, io dico, perché un'indagine in Italia non si nega a nessuno. Rischia di finire nei casini questa storia del lodo Marino. Secondo me rischia di finire nei casini. Comunque, cari ascoltatori, 349-238-6666, questo è il numero dei vostri messaggi. Per i vostri messaggi, se volete scriverci, se magna intanto, se magna. Chi l'ha detto che in politica se magna? Oggi ho due comunistoni qua, tra l'altro, eh? Uno è Alessandro Robecchi, che saluto con grande piacere. Ben ritrovato, interista mio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Milan. Non siete più la capolista. Ridillo bene, Milan, ridillo più forte. Il campionato è ancora lungo. No, ridì bene Milan, proprio. Buongiorno Milan. Un po' più tronfio. No, basta. Hai già detto tre volte la parola Milan alle 6:32 del mattino. Giornata rovinata. Giornata distrutta per Alessandro Robecchi. Allora, brucia Roma, ma noi ci tiriamo su perché ha promesso e lo farà tutti i giorni a partire dalla scorsa settimana, lo ha fatto anche la scorsa, anche questa volta lo farà la nostra Veronica. Veronica. Buongiorno. La nostra Veronica Gentili ha promesso, l'hai promesso, eh? Io l'ho promesso, ma dopo che mi metti brucia Roma da 4 ore, non so, tu capisci. Hai promesso, no? Che ci manderai tutte le volte che sei ospite una foto, un selfie tuo. Azzozzone! Grande Milan! Ma chi è questo? Ma che azzozzone? Secondo me, però, per compensare, oggi servirebbe anche il selfie di Robecchi, io lo dico. Questa è un'ottima idea. No. Allora, Veronica Gentili, pronta col tuo selfie, mandalo su Twitter per favore. E quando l'hai fatto, avvisami, così ritwittiamo e tutto. Che va, c'è, bene. Ci sono le persone che non so perché, ma lo attendono. C'è qualcuno che dice: Robecchi, anche tu, se vuoi, puoi mandarci un selfie. Non so, sei stravaccato. No, guarda, a me la radio mi piace così in bianco e nero. Hai i suoi vantaggi la radio. Esatto, sì. È il vantaggio della radio. Sei non so, vuoi descriverci in che situazione sei in questo momento? Io sono nel mio studio a leggere i giornali. Nel mio studio a leggere. La romanzata. La immaginiamo, la scena non è così. Sì. No, giuro, è così. Il famoso studio, ma mi ritiro in studio a leggere i giornali. Certo, sì. Va bene. Dai, apriamo il Parlamento perché qui c'è da raccontare. Insomma, cose di Roma, ma non solo, Capito Alessandro, non si vota più quella signora un po'. Non si vota, come vabbè. Pazienza. Di moda. Vabbè, è come il bianco, il nero, i vestiti. Non so, poi tra l'altro non trovo più sui giornali questa, mi sembra passato un po' in cavalleria, un po' sotto silenzio questa, diciamo, proposta di Zanda, che non è uno che passa di lì, no? È il capo dei senatori del PD, cioè, non è la portinaia stabile, diciamo. Chi ha proposto? Che ha detto che, insomma, per il sindaco di Roma votare durante il giubileo porrebbe dei problemi di ordine pubblico. Ah sì? Non so esattamente quali, forse teme che si picchino coi rosari, non so. Certo, non lo so. E che quindi, insomma, sarebbe ragionevole votare dopo che finisce nel novembre del 2016. Si prende un po' di tempo. Quindi si parlerebbe della primavera del 2017, no? E questo, insomma, mi lascia un pochino perplesso, nel senso che tu rimuovi un sindaco, cioè gli assessori si dimettono, quindi il sindaco si dimette, eccetera, eccetera. Tutto regolare, Sì. Diciamo regolare, e non si poi vota si più. Aspetta un anno e mezzo per votare. Sì. Nel frattempo si parla di commissari con dei segretari, con dei vicecommissari, che sarebbero tra l'altro alcuni tra gli assessori che si sono messi per far dimettere l'assessore sindaco. Sabella, per esempio, è oppure Esposito, si dice, non so, e quindi, cioè, diciamo che la giunta si dimette per far dimettere il sindaco, poi in qualche barbatrucco torna in carica la giunta e non si vota. Che male c'è? Insomma, un filino, anche perché nel frattempo, no, già richiamando il modello Expo, si dice: ah, allora adesso il giubileo sarà un successo. Naturalmente ci pomperanno dentro un sacco di soldi, un po' di pellegrini così buttati qua e là, poi sì. Tra un anno e mezzo riorganizzate le devastate truppe, diciamo. potrebbero. Vabbè, ma è un gran classico, cioè i partiti prendono un po' di tempo, no? Anche questa gestione commissariale non si capisce in genere. Sì, ma voi siete già alla fase dopo, io sono ancora alla fase prima, per cui sono ancora incazzata nera, perdonatemi. Cioè quest'ora. Tu c'hai ancora il sindaco Marino, il sindaco è Marino. Ma non esiste al mondo, intanto nel pezzettino che avete messo prima lo diceva la signora, no, io non l'ho votato al giro prima, al giro primo ho votato Grillo, questa volta voterei lui. Cioè, non esiste al mondo quello che sta accadendo. L'intervista di Renzi da Fazio l'altra sera era letteralmente scandalosa, intanto con lo sprezzo iniziale di dire mi era anche simpatico perché era l'outsider delle primarie, un po' a dire no sul mio stile, eravamo un po' dello stesso genere. Stai sereno, gli ha detto Marino, stai sereno. No, non gliel'ha detto, ma ce l'ha fatto stare comunque. Detto questo, cioè, io sono così ormai attonita e senza parole. Fino a prova contraria, noi romani lo abbiamo votato e adesso va bene che uno è spodestato definitivamente di qualunque tipo di autorità. Ma si è dimesso, popolare. Si è dimesso. Ti prego, non mi far arrabbiare. Poi sugli scontrini, perché come sempre, no, su queste cose c'è stato il coro, perché ci sono alcune tematiche su cui se si vuole scegliere la gogna mediatica, quelle funzionano sempre benissimo, quindi lo scontrino attecchisce anche a livello popolare perché è facile, è comprensibile, quindi funziona per tutti. Mi chiedo se poi vale altrettanto, visto che adesso... non vale per nessuno. La nemesi, io mi auguro per il premier che non si abbatta su di lui, perché sarebbe proprio una brutta figura. Beh, un giornale a caso che cito, caso. Il Fatto Quotidiano, noi non ne sappiamo nulla su cui collaborano e per cui collaborano anche Robecchi e Gentili, Il Fatto Quotidiano oggi insiste su questa vicenda e tra l'altro la Corte dei Conti vorrà aprire un fascicolo sulle spese di Renzi quando era la provincia di Firenze. Cene con aragoste una volta negli Stati Uniti. Con la moglie io. Eh? Cosa? Avevo capito con la moglie io. questa non è male, non è male. Cene con aragoste e Cosucce, così una cena da 1600 euro, una cena da 2800 euro. Renzi dice ci sono tutti gli scontrini, per la verità online, qualcuno li ha chiesti e non li ha ottenuti. Non ci sono, mi spiace. Eh no, non ci sono, infatti. Va bene. Capito, non ci sono gli scontrini online, ma soprattutto veramente due pesi e due misure. Cioè, sì, però dai, scusami Veronica, ma Marino, no, al di là di tutto era indifendibile. Che cos'era? Indifendibile ormai, cioè, ma voglio dire, è vero, ma si è scavato un po' la fossa politica da solo, dai. Allora, la questione... che Marino purtroppo sia una persona inadeguata dal punto di vista comportamentale e che sia una persona goffa, stravagante, una mina vacante, è tutto vero ed è proprio l'elemento per cui non è che adesso improvvisamente dici l'hanno beatificato, i romani sono impazziti, no, ma l'idea che non ci sia più la possibilità di decidere quello che si desidera per la propria città, saranno affari miei se io voglio votare un sindaco e pensare che le buche non saranno messe a posto tanto quanto, a parte che questa mitologia della città che invece funzionava con Alemanno, ma non è che hai fatto sorridere Robecchi, non lo so. Sono le buche che ti hanno fatto sorridere. No, la città che funzionava con Alemanno. No, ma non è che siccome Marino ha sbagliato vuol dire che con Alemanno era prima. Meglio. Ma no, però ce lo siamo dimenticati, quindi adesso bisogna vedere anche quelli di Casa Pound che vanno a fare i coretti militanti. Veronica Gentile è pronta. Ma candidati tu, secondo me qualcuno ti vota, sicuro. Ma perché a questa ironia qualcuno ti vota fai poco sfidoso. Detto questo. No, non era. Comunque, insomma, se magna, nella politica se magna, sai Di Pietro ieri cosa ci ha detto? Io gli ho detto, vabbè, ma ormai Di Pietro la politica si fa da Gigi il Troione praticamente, e Di Pietro l'ha vista così. Qui invece si arriva da Gigi il Troione e gli si chiede. D'altronde che sia una troiata la politica di oggi. Vabbè, questa è l'editoriale Robecchi, è l'editoriale di Di Pietro. L'abitario Di Pietro. Sì. Sì, ci sarebbe un'altra nota in margine, sì, se è consentito. Cioè? Trovo spettacolare che nessuno dica niente sul fatto che da qualche giorno vescovi e cardinali affami, no? Direi chi deve essere un onesto. No, ma da ieri ne abbiamo parlato. Cioè il Vaticano, come dire, sta dicendo vagamente la sua su questa vicenda. Al punto che ieri il vicario del Papa Vallini, del Santo Padre, ha detto via Marino, e dopo però non iniziamo a parlare più. Mi sembra bizzarro. Secondo me uno dei problemi è che, essendo Papa Francesco un Papa molto, molto empatico, molto umano, anche no, tutta la parte aconfessionale, laica, sempre sulle difensive rispetto all'atteggiamento umano, della Chiesa, esatto, ha in qualche modo un po' deposto le armi, cioè sono meno appuntite, mentre purtroppo uno si dimentica che poi esistono dei poteri della Chiesa che sono comunque sottostanti, esistono degli atteggiamenti che non sono comodi. Infatti è vero che le congiunture Marino le ha anche anticipate con quello che è successo, però che a ridosso del giubileo, a 53 giorni dal giubileo, venga dimesso il sindaco con comunque un atteggiamento così estremo da parte della Chiesa nel dire ok, adesso c'è bisogno di un rinnovamento dirigenziale, è un po' troppo. Non è che funziona proprio bene, la frase, no? Proprio come umano lei. La mia impressione è che le ingerenze vaticane vadano bene o male a seconda delle convenienze. Se dice qualcosa che non ti piace, ecco l'ingerenza del Vaticano. Se invece dice qualcosa che ti fa gioco, per esempio al PD cambiamo Marino, allora Allora facciamo una domanda, certo, però mi rispondete così, con un sì o con un no. Quindi secondo te, proprio sì o no, Veronica Gentili, Renzi è stato un po' spudorato su questa vicenda? Me lo dici anche come se ti sì, 100% per te Robecchi? Ma perché c'è qualcosa su cui Renzi non è spudorato? Ecco, allora voi la pensate come Renato Brunetta. Io sono convinto che questo vi faccia molto piacere. Forse è Renato Brunetta che la pensa come noi. Ma non lo so, sentite Brunetta. Spudoratezza da parte del Partito Democratico e di Renzi. Sembra che su Roma la sinistra, il PD, non ne sappia niente, ma governava il Partito Democratico di Renzi a Roma. Assolutamente inaccettabile e spudorato che Renzi se ne lavi le mani come ha fatto eccolo lì. La pensate come Renato Brunetta? Ma tu pensi che questi argomenti siano dei deterrenti? No, ma che ne so. Comunque io devo andare al traffico, vorrei sapere se Veronica Gentili ha compiuto il suo dovere. Compiuto il mio dovere. Perfetto, vado a ritwittare subito. Attendiamo Alessandro Robecchi. Potete dare anche sul sito, sul profilo di Veronica Gentili. Com'è il tuo su Twitter? Gentili Vero. Gentili Vero. Gentili Vero, la trovate. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Andate al traffico. Video Milan, manda al traffico. In Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Berlusconi. Vuole mettere un'altra volta le mani su Roma? Non gli è bastato Alemanno quello che ci ha combinato? Ma io mi domando, il Papa va a fare una visita in America e ci dice: in America non dovete vendere armi e dovete togliere la pena di morte. Pena di morte ci vuole in Italia, e subito, subito! Il prossimo sindaco di Genova si chiamerà Marino Ignazio, visto che a Roma ha rotto il cazzo. Secondo me i romani hanno diritto a votarsi il proprio sindaco. Basta con le primarie, queste maialate che fa il PD, perché è tutta una cosa che poi fanno tutto per conto loro, e ormai li conosciamo anche quelli. Ciao Mila. Alessà, ma io c'ho una mezza idea. Ma che ne pensi tu? Se chiamiamo un bel cardinale a far sindaco di Roma, così sta casa è bottega. Mo che c'è star giubileo, a voglia suonare campane, tutta festa, voglia, Alessà! Ma non è male, Robecchi, senti già proprio la festa, no? Questa è la nostra segreteria telefonica. C'è uno che aveva già lo slogan per Ignazio Marino, sindaco di Genova. Funzionerà? Sì, ho sentito. funzionerà secondo te, Robecchi? Potrebbe funzionare. Allora, potremmo fare le primarie per chi porta la tonaca rossa. Esatto, esatto. Oh, è arrivato, tra l'altro, è arrivato il selfie di Veronica Gentili, l'abbiamo messo sul profilo Twitter di 24 Mattino, c'è chi al buongiorno ti risponde buongiorno, chi tanta roba, vabbè, insomma, robe così. Io ho una curiosità, ma sei sempre sul divano quando fai? Ma perché ti caccia sul divano il fidanzato a dormire a notte? Beh, secondo sei te fastidioso. Se resto a letto, secondo te riesco già così, il livello di connessione neuronale è già scarso. Ah, va bene. Pensa, però poi a riuscire a stare in piedi è troppo, capito? Quindi va, non beh, avendo dipinto uno scenario ancora così alla Robecchi con giornale, studio, sì, caccio sul divano. Esatto, esatto. Almeno sei più professionale, non come Robecchi che dice sono in studio a leggere i giornali. giuro, non so più cosa dire. Non sai più ormai cosa dire. Non ti credi. Questo è soltanto perché per il selfie, capito? Ma io stiamo cercando. Milan. Tu a che ora ti alzi, Robecchi? No, è quando mi chiami tu alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza, che sei matto? Mi fai leggere i giornali. Ho capito, ma sì, va bene, ho capito. Ma non pensavo di buttarti addosso questa croce. Ecco, penitenziagite. Penitenziagite. Va bene, la politica, non lo so. Robecchi, ci devi attaccare il pippone sul Senato adesso. Dai, sì, l'attacco alla Costituzione. Fallo anche tu. Dai, devastano la Costituzione, violentano democrazia. Consiglio a tutti per mettersi al passo coi tempi, di guardare le facce dei costituenti del 46 e di guardare le facce dei costituenti di oggi. Non serve altro. Tipo, io non tipo sono lombrosiano. No, però un po', dovresti esserlo. Guarda che essere lombrosiani secondo me non è tanto. Diciamo che vedere, non so, Togliatti, Plussu, che scrissero la nostra Costituzione e oggi ritrovarci con Verdini e Danna. Vabbè, dai. Sì. Vabbè. È il segno dei tempi. Ma Danna, lo sciopero la fame non l'ha fatto, però ma due giorni l'avrà fatto, non lo so, lo sciopero, peccato della fame. Perché secondo me era una buona occasione invece lo sciopero della fame, lo sciopero della fame per mettersi a dieta era una buona chance. Ma in tutto questo io non ho capito, i miei non fanno niente per niente, non ho capito invece una cosa, perché al di là di essere a favore o contro le unioni civili, ognuno può avere la propria idea, non capisco. Ma già hai saltato la riforma del Senato, siamo andati avanti così, ma sì, cioè, ma manca, messo la lapide, ma no, ma manca un minuto, è storia, è già fatta la riforma del Senato. Capito? Cosa così funziona l'Italia, no, come dici, siccome tu, è già fatta, è siccome passata il Parlamento, ce la siamo dimenticata. Mettila, siccome manca mamma un minuto mia. Io vorrei capire perché una forza politica che è rappresentata, avrà secondo i sondaggi il 2%, cioè il nuovo centrodestra, può avere la forza di bloccare le unioni civili, ma così come qualsiasi altro provvedimento, non è che... Allora chiediamoci perché una forza che c'ha il 2% nei sondaggi e alle elezioni ha la forza di esprimere il ministro degli interni. Appunto, potrebbe essere, sì, anche certo. Però la risposta ce l'abbiamo, i voti pesano, non si contano, i voti pesano. Mi dirai che è l'ennesimo strazio di questa, sì, di questa maggioranza che sta in piedi con lo scotch, per cui anche anche il caro Angelino, io non è che ce lo vedo che si strappa i capelli che non ha per la tematica delle unioni civili a casa. Però siccome l'identità ormai non ce l'hanno proprio più, gli restano due battaglie da fare, due battaglie metaforiche per far vedere che hanno ancora un'identità di partito, tra cui una è questa qui. E quindi sono costretti a farlo. Deve farla. Ed è una recita che si fa collettivamente. Detto questo, una maggioranza che sta in piedi su questi criteri, che è veramente una cosa, una specie di... Non ti piace. Ma che cos'è? Cioè, vabbè, che specie di fermati lì, fermati lì, se no sforo, ho bisogno di avere il selfie o una foto dello studio di Alessandro Robecchi, mettila su Twitter se ti va e noi la ritwitteremo. A dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, a leggere i giornali alle 7:18 minuti, tra 3, 2, 1, 0 secondi. Eccole qua, 7:18 minuti in punto. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 per 24 mattino. Siamo pronti anche più tardi con Oscar Giannino ad accogliere e a parlare di vari temi sui giornali, ad accogliere Raffaele Cantone, sarà ai nostri microfoni. Beh, avete sentito che ci ha detto qualche giorno fa l'assessore Sabella che praticamente Roma è ingovernabile perché i funzionari, i dirigenti apicali del comune, in gran parte, non tutti per la verità e per carità, sono compromessi, sono, come dire, un sistema che cerca di perpetuare a se stesso, e quindi a volte qualcuno, c'è il sospetto che metta anche i bastoni fra le ruote nei provvedimenti che vengono firmati. Insomma, ne parliamo con Raffaele Cantone e poi avremo Alessandra Ghisleri, che è una sondaggista e che ci racconterà quanto vale Marino, perché forse Marino si ricandida dopo essersi dimesso. Ma tutto questo c'è sui giornali, lo andiamo a leggere. In questo martedì 13 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore si dedica alle poste via l'IPO record in borsa dal 26 ottobre. Alle cedole l'80% degli utili per due anni, dice il presidente delle Poste, o meglio l'amministratore delegato Caio. Per il Corriere della Sera, Unioni Civili, muro di Alfano, così Repubblica, pensioni a rottura, Unioni Civili, scontro Alfano PD. Per la Stampa invece, aiuti alle famiglie bisognose esodati, mancano i fondi, è l'analisi della legge di stabilità che in settimana vedrà la luce. Per il giornale, nuove regole, così gli immigrati diventeranno cittadini italiani. Arriva lo Ius Soli temperato, così si chiama. Il Messaggero invece, super commissario dopo Marino, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano continua e la vicenda ora approda anche sugli altri giornali, ecco le cene e i viaggi di Renzi, nel mirino le spese quando era il comune di Firenze. Libero invece, per gli immigrati la Fornero non vale, in pensione un anno prima. L'Unità, ore 15, la seduta è sciolta, e cioè le dimissioni di Marino. Mentre Avvenire, polveriera Turchia, questo è il titolo dopo il terribile attentato di Ankara. Ma voglio partire dall'analisi della legge di stabilità e soprattutto una nuova idea che spunta per il canone Rai. Ne abbiamo parlato anche con Oscar Giannino nei giorni scorsi. Ebbene, eccolo qua, Paolo Baroni sulla Stampa, pagina 3, racconta che spunta una nuova proposta, una nuova ipotesi: pagare il canone della Rai in due rate, 50 euro a gennaio e altri 50 a giugno. L'operazione canone in bolletta per la verità procede, scrive la Stampa. Ogni giorno che passa tra tesoro e sviluppo economico si limano i dettagli, si mettono a punto le varie opzioni. Certamente il provvedimento verrà inserito nella legge di stabilità, assicura chi segue il dossier. Confermato l'importo ridotto 100 euro anziché 113,50, destinato poi a scendere ulteriormente negli anni a venire, forse anche sotto quota 80 euro col crescere degli incassi. Ma questa è la nuova ipotesi. Rate bimestrali, come tradizione, l'ultima opzione su cui si sta ragionando prevede un pagamento in due tempi, con l'importo diviso a metà. 50 euro che andrebbero versati come al solito a gennaio attraverso i consueti bollettini predisposti dalla RAI, e poi altri 50 euro che finirebbero, questi sì, nella bolletta con cui si pagano le utenze elettriche, andrebbero saldati a giugno. Poi, una volta andati a regime, dall'anno prossimo si passerebbe ai pagamenti bimestrali spalmati, quindi in 6 rate. Dunque il canone RAI a rate, questa almeno è l'idea che si sta profilando all'orizzonte. Vedremo ogni anno dicono che c'è questa novità, poi non c'è mai, però la legge di stabilità è tra 4 giorni, 15 ottobre, giovedì credo, e dunque tra 2 giorni, e dunque vedremo se ci sono queste novità. Mentre la questione delle cene di Renzi, è una questione che ora non è più solo sul Fatto Quotidiano. Anche se il Fatto Quotidiano ha tirato fuori questa vicenda andando a intervistare Lino Amantini, che è un ristoratore, uno dei più gettonati per Renzi, la famiglia, gli amici. Per la verità questo ristoratore ora smentisce tutto all'ANSA, racconta il Fatto Quotidiano. Dice: non parlo più con nessuno, non dico proprio nulla, tutto il giorno che squilla il telefono, lasciatemi lavorare per favore. A Repubblica.it addirittura dice: smentisco, quelli del Fatto mi hanno messo in bocca parole non mie. Insomma, adesso c'è il giallo. Le cene di Renzi, quando era sindaco, diventano un caso. La vicenda ora è su tutti i giornali. Il Corriere della Sera dedica una pagina. C'è un accertamento della Corte dei Conti dopo le parole di un ristoratore fiorentino. Così anche su Repubblica, così su tutti i giornali, ma vediamolo il Fatto Quotidiano, perché oggi il Fatto insiste. È Davide Vecchi che per il terzo giorno va a analizzare la vicenda di Matteo Renzi quando era presidente della provincia e presidente o sindaco di Firenze. Intanto la vicenda portata alla luce a Lino Amantini, ristoratore. Domenica c'era un'intervista al Fatto. Il consigliere Tommaso Grassi di SEL a Firenze chiede al sindaco Nardella di rendere trasparenti le spese dell'attuale giunta e della precedente. Renzi noi lo conosciamo bene, già in provincia ha mostrato ottime performance, ma ha risposto al Fatto di aver messo gli scontrini online. Ebbene, questo Grassi dice: siamo andati a cercarli inutilmente, dunque la richiesta intanto di mettere gli scontrini online. Inoltre il Fatto pone altre domande, per esempio la cena al Cibreo, uno dei ristoranti più rinomati della città, il 23 maggio 2008, 1260 euro la fattura, inviata in provincia e pagata attraverso bonifico. E poi la Taverna del Bronzino, 1855 euro, e ancora il Caffè Nannini, in un sol colpo versati 1224 euro. Impossibile conoscere causale e commensali. Renzi poi nell'ottobre 2007 riesce a farsi bloccare la carta di credito durante un viaggio negli Stati Uniti, sospesa a garanzia di un pagamento da parte di un hotel a Boston, e così Renzi è costretto a pagare in tasca propria 4.106 dollari. In quella occasione pasteggia ad Aragoste e appena torna in Italia si fa restituire la somma con una delibera firmata il 19 novembre. Insomma, il Fatto Quotidiano insiste, ci sono altre cene per le quali si chiede conto all'attuale presidente del Consiglio. Tra l'altro, accanto a questa storia, sia il Fatto ma anche Libero la sta seguendo con attenzione, si rispolvera la vicenda che riguarda invece il papà di Matteo Renzi, vale a dire Tiziano Renzi, che per la sua società, la CIL, finita poi male come vicenda, è indagato. Il giudice dice: indagini preliminari sulla vicenda di Tiziano Renzi e della sua CIL, perché era stata chiesta dal PM l'archiviazione. Invece il GIP Roberta Bossi ha chiesto un supplemento di indagine sulla bancarotta che vede Tiziano Renzi tra gli indagati. Soprattutto, racconta Libero, si vuole indagare su 3,5 milioni di euro, perché come racconta Giacomo Amadori a pagina 5, si vuole analizzare la cessione di un ramo di questa CIL Post di Tiziano Renzi, il papà di Matteo, alla moglie Laura Bovoli e alle figlie Benedetta e Matilde. Il prezzo di azienda fu di 3.878 euro, ma secondo il giudice per l'udienza preliminare nascondeva in pancia un fatturato non dichiarato da circa 3,5 milioni di euro. Per carità, tutte vicende sulle quali si indaga, però di fatto il giudice ha chiesto una ulteriore proroga di indagini per avere tempo. E vabbè, registriamo questa vicenda. Chi di ristorante ferisce, di ristorante perisce, evidentemente. Vi segnalo, per quel che riguarda tutti i fumatori, che è passato al Consiglio dei Ministri il divieto di fumare con bimbi in auto. Ma io mi dico, ma ci vuole un divieto per legge? Cioè, tu hai un bimbo in auto e fumi? Se sei da solo, vuoi fumare, fuma. Ma il bimbo in auto ti metti a fumare? Vabbè, comunque, ora è vietato per legge. Mai più sigarette coi bimbi in auto. Tra l'altro arriverà anche sui pacchetti delle sigarette le foto shock. Dopo le scritte shock, ora le foto. Repubblica ne mette in pagina 22 alcune. Con le foto, se le volete vedere, io l'ho messa anche sul mio profilo Twitter Alino Milan, le potete vedere alcune delle foto shock per cercare di dissuadere dal fumo. Comunque arriva il divieto a fumare con i bimbi a bordo. Ma eccoci qui, questo è l'articolo che mi fa più della giornata, è l'articolo, per l'appunto, visto che si parla di auto, che ci fa tenere le mani sul volante. E ricordate di appoggiare tutto ciò che di contundente avete oggi in mano, in questo momento, nelle vostre abbondanti colazioni. Al rapinatore, casa Ater a 12 euro al mese, è la casa popolare a Padova. Lo racconta Mario Giordano in prima pagina di Libero. Non è un paese per persone oneste. Dalla banda del Kalashnikov all'alloggio popolare a 12 euro al mese. Se volete una dimostrazione che in questo paese conviene essere disonesti, leggetevi la storia del giostraio di Padova Giampaolo Moretti. 10 anni fa, per catturare lui e i suoi complici, ci vollero 40 poliziotti, un agente rimase anche ferito. Ci fu un inseguimento da telefilm americano, posti di blocco forzati, sirene spiegate, tentati investimenti. Si concluse tutto al casello di Dolo. Moretti venne arrestato con suo fratello minore e altri due giostrai col vizietto dell'assalto ai supermarket. Ebbene, che succede? Sono passati 12 anni, 10 anni, questo signore è ancora libero, in attesa di giudizio. Nel frattempo gli hanno dato una casa popolare. Una casa popolare a 12 euro al mese di affitto a Padova. Per carità, magari non ha soldi, magari non ne ha, ma vi rendete conto? Al rapinatore col Kalashnikov, casa popolare a 12 euro al mese. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alerta per tutti i veneziani. Chiuse in gondola e mambe strette sul remo. Alessandro Milan lese i giornali. Ma non potrebbe lese gli oroscopi. Si potrebbe fare, caro ascoltatore. Potrei anche fargli gli oroscopi. No, scherzo, adesso mi butto in una polemica. Mani sul remo, però non è male, perché è in gondola. E allora, cari ascoltatori, vi ringrazio. È il giorno delle dimissioni di Marino. Ieri c'è stata una telenovela giunta alla puntata numero 3224 che voi seguite con grande passione, mi rendo conto. E Giovanna Vitale racconta il retroscena più interessante. Ieri è successo questo. Siamo su Repubblica, a pagina 6. A un certo punto Ignazio Marino convoca un consigliere, Gianni Paris, in un faccia a faccia lo convoca e dice: ma l'avete capito? Intanto Marino gli dice: ma secondo te ci sono ancora le condizioni per andare avanti? Cioè, sembra non prendere il contatto con la realtà. E comunque dice: ma l'avete capito che c'è un complotto contro di me? Questa storia degli scontrini è un complotto. La storia si sta sgonfiando. Avete capito che quel ristoratore che mi accusa lo fa solo perché gli abbiamo tolto i tavolini all'aperto? Ecco, questo Ignazio Marino dice a un certo punto. La speranza è che l'inchiesta che lo riguarda venga archiviata prima di iniziare. Un filo fin troppo esile, racconta Giovanna Vitale, alla fine prende atto della situazione e quindi alle 15 si dimette e poi si rintana a casa. Quindi Marino che dice è un complotto, quel ristoratore mi accusa perché gli abbiamo tolto i tavolini all'aperto. In ogni caso si guarda già al dopo, il dopo è un super commissario, questo almeno giura il Messaggero, il super commissario. E poi che si farà? Beh, Renzi ha detto si faranno le primarie. L'idea però, secondo il Corriere della Sera, pagina 3, è l'idea di primarie di coalizione per ratificare le scelte del PD, cioè il tentativo è quello di fare delle primarie. Adesso io la traduco in maniera brutale, non prendetemi alla lettera, delle primarie farlocche, cioè mettere in realtà un vero candidato, uno, e poi tutti gli altri dei cartonati. Ecco, l'ho detta troppo brutale, però il senso che si evince dalle retroscene è quello, cioè mettere un candidato forte, e non chiedetemi chi, non lo sanno neanche loro, per cui figuratevi se ve lo dico io. E poi l'idea è di altre persone che comunque non emergeranno. Governare le primarie, questo è il senso, come racconta Monica Guerzoni, di quello che vorrebbe fare Matteo Renzi, a pagina 3 del Corriere della Sera. Tra l'altro alle primarie potrebbe candidarsi lo stesso Ignazio Marino. Ignazio Marino che fa? È per questo che abbiamo anche chiamato Alessandra Ghisleri per aiutare a capire. Perché secondo alcuni vale l'8%, secondo Renzi non c'è da preoccuparsi perché retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 2 di Repubblica, il commento di Renzi è: erano in 700 in Campidoglio a sostenere Marino, quindi figuratevi, 700 sono numeri risibili. Però Ignazio Marino teme Renzi voglia candidarsi alle primarie, e allora attenzione, sempre Goffredo De Marchis racconta che Renzi ha in mente uno stratagemma per impedire a Marino di candidarsi se mai volesse alle primarie del PD. È il lodo Marino. E che diavolo è? Ebbene, è questa una semplice regola: escludere dalle primarie chi è indagato. E sapete che Marino rischia appunto l'indagine per peculato adesso che la procura indagherà sulle spese, sugli scontrini. Impedire agli indagati di candidarsi alle primarie del PD è una via molto pericolosa, a mio modo di vedere, perché un'indagine in Italia non si nega a nessuno, una via molto molto perigliosa. Comunque sulle cene, doppia indagine, la finanza e la Corte dei Conti, racconta Sara Menafra sul Messaggero a pagina 5. Oggi in Campidoglio si presenteranno le fiamme gialle della Guardia di Finanza, vorranno acquisire tutta la documentazione per vedere le spese con la carta di credito, eccetera. C'è da dire che tutto questo avviene solo a Roma, adesso che è venuta la vicenda di Marino, perché come racconta anche il Giorno, praticamente non esiste sindaco. Adesso qualcuno si arrabbierà e dirà: no, questo sindaco lo fa. Sì, qualcuno lo farà, ma in generale i grandi sindaci non mettono mica online le spese in maniera trasparente sul sito del comune. Il Giorno, Rosalba Carbutti, pagina 7, indennità, ristoranti, missioni, i sindaci non rilasciano scontrini, dati incompleti, poco aggiornati, Venezia per esempio non pubblica nulla, l'amministrazione di Bologna ha invece un sito dedicato alle spese del sindaco Virginio Merola. Luigi De Magistris ha reso conti, rendiconti abbastanza dettagliati ma fermi al 30 settembre 2013, denuncia il Giorno. Nardella, Firenze, spese di rappresentanza basse nel 2014, 4.609,31 centesimi, dunque c'è la cifra. Livorno, Filippo Nogarin, Movimento 5 Stelle, qui le spese sono dettagliatissime fino al centesimo, ma nel sito manca il suo stipendio per un errore, dice lo stesso Nogarin. Insomma, non è che c'è questa trasparenza totale per cui si può dire che solo Ignazio Marino invece con questi 19.000 euro no, ma comunque è una polemica che continua da giorni. Dopodiché leggete tutti Sergio Rizzo oggi pagina 5 del Corriere della Sera, perché si è detto, e lo ha detto l'assessore Sabella, che potrebbe essere il nuovo commissario di Roma. Sabella, magistrato, ce l'ha detto due giorni fa: Roma è ingovernabile. Volete averne un esempio concreto? Sergio Rizzo: la capitale senza rotta. Da settimane gli impiegati del comune di Roma rovistano nelle carte, una montagna di carte, scavano per ricostruire la storia dei 40.000 alloggi di proprietà comunale, contratti, contenziosi, liti condominiali, perché anche se può sembrare incredibile, nel 2015 per governare il patrimonio simile non esiste una memoria informatica. la società Romeo, che per 18 anni l'ha avuta in mano e ora è uscita di scena, non ha consegnato un dischetto, una chiavetta USB, un archivio virtuale, ha consegnato due tir, due camion che hanno scaricato nel piazzale della vecchia Fiera di Roma 128 bancali con 3.000 contenitori e decine migliaia di fascicoli. Auguri e figli maschi, commenta Sergio Rizzo. Ebbene sì, è governabile la capitale di un paese che ha il proprio patrimonio immobiliare, 40.000 alloggi, tutto diciamo archiviato su carta nel 2015, due camion di carta. Poi dicono che la carta costa. Porcaccia la miseria. Mettiamo Mauro Meazza a sistemare tutto il patrimonio immobiliare, tutto l'archivio del patrimonio immobiliare di Roma. Dai, lì, altro che Fantozzi, caro Mauro. Oh, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Volentieri potrei occuparmene. Se mi fate scaricare lì in sede i bancali, quanti sono? 128? Non lo so, cioè, adesso aspetta. 128 bancali, 3.000 contenitori, decine di migliaia di fascicoli. Sì, poi vanno studiati. Sì, ma non è che devi scaricarli solo, poi devi ricostruirne la storia. Ci mettiamo tu e io lì al bar un momento. Ottimo. Tra l'altro, guarda, lo possiamo fare mentre leggiamo qualcosa sul Sole 24 Ore, magari, va bene. No? Per fare una pausa. Dai bancali o dal sole, non so bene. Comunque ti volevo dire, caro Alessandro, sì. È partito l'IPO, l'hai detto anche tu, IPO. IPO, IPO, detto così, IPO. Angelino ti ascolta, attento che Angelino ti ascolta. È partito l'IPO, insomma l'offerta per il collocamento di Poste Italiane. Allora oggi è pagina 2, la bussola è quello che c'è da sapere per investire. Guarda che due eurini non bastano, va bene. No, c'è un lotto minimo. C'è un lotto minimo di acquisto, quindi leggi sul Sole 24 Ore tutti i dettagli per aderire a questa offerta. Oh, e poi ti volevo dire invece che più oltre, nelle pagine successive, trovi alcuni dettagli sulla legge di stabilità che ho sentito ti sta appassionando. La preparazione della legge di stabilità. Ecco, allora apprendi anche che intanto la Commissione UE ha dei dubbi, anzi diciamo ha bocciato la legge di stabilità spagnola. Perché c'era un po' troppa flessibilità secondo loro. Ecco, adesso speriamo bene che con noi invece siano più benevoli. Tutto dovrebbe andare per il meglio, ma lo scopriremo solo aspettando, scopriremo solo leggendo cosa c'è dentro. C'è una pagina intera dove vi facciamo il punto sulle varie misure, alcune le hai già segnalate, altre te le segnalo dal Sole 24 Ore, ad esempio misure per il taglio del IRES o per gli ammortamenti, capisci ammortamenti? Non è importante tu capisca, è importante che capiscano gli ascoltatori. Oh, e poi ti volevo precisare che nella stretta sul tabacco, sì, fai quella per cui non si può più fumare come in auto, ecco, se ci sono i bambini o donne in stato di gravidanza, beh c'è anche il divieto della vendita dei pacchetti da 10. Prima l'ho detto, ma questa no. Il divieto è perché? È perché ritengono la Commissione UE, che poi è tutto discende costano da una direttiva, poco, costano no. poco, bisogna pagare un po' più di tasse. No. Perché ritiene che siano un veicolo per la diffusione del fumo, così come anche le piccole confezioni di tabacco, quello sfuso che hanno avuto pure molto successo. Comunque trovi tutto nelle pagine, indovina un po' quali. Di norme e tributi. Ma certo, ma tu devi leggere religiosamente come le pagine sempre. Norme e tributi, perché così scoprirai che ieri nel corso di tutto lavoro abbiamo saputo che ci sarà uno statuto per il lavoro autonomo. Il passaggio è importante, una prima parte sarà nella legge di stabilità, appunto, per la parte fiscale e previdenziale. Ma poi il governo sta pensando proprio a uno statuto per il lavoro autonomo in tutto il suo genere, quindi tra i professionisti, bene, quelli con albo, quelli senza albo e così via. Leggi norme e tributi che ti fa bene, io te lo dico sempre. C'è anche naturalmente la guida alla voluntary disclosure, tu volessi mai rinsavire, ma ormai capisco che è una battaglia perduta. E naturalmente non ti dimenticare di leggere anche finanza, le pagine di finanza, perché lì apprenderai tutti i particolari sulla nuova tipo, perché torna la tipo, tu manco eri nato quando vendevano la tipo, come probabilmente no, come no, la Fiat facevi tipo. L'asilo forse quando vendevano la tipo, può essere, Ecco, invece alcuni, gli ascoltatori, diciamo, più agé come me, che hanno fatto persino in tempo a guidarla, sì. potranno prendere le pagine di finanza tutti i particolari di questa nuova tipo. E non diciamo neanche a farci cosa sulla tipo. Bravo Mauro. Ma no, guarda, ero già anzianotto già all'epoca. Bravo. Sono nato anziano. E perché ti parlo di autovetture proprio in questo momento? Sa perché? Ma perché? Perché devo dirti la mia parola di commiato. Traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Milan, la fiorentina dell'informazione. E magari, caro ascoltatore. Allora, sulle unioni civili, politica, c'è lo scontro NCD, lo scontro all'interno del governo, ma ora formalizzato. Il nuovo centrodestra di Alfano ha definitivamente spaccato su questo tema la maggioranza, perché c'è stato un vertice ieri a Palazzo Chigi, quindi nella sede del governo, tra il Premier e il Ministro dell'Interno Alfano, proprio su questo. L'idea, ricomporre le distanze sul tema, e invece rimangono profonde divergenze di merito e di tempi, soprattutto la NCD è contro la cosiddetta stepchild adoption, che è prevista nella legge delle unioni civili, cioè la possibilità in una coppia di persone dello stesso sesso di adottare il figlio del partner, che magari è un figlio, anzi sicuramente è un figlio che proviene da una relazione eterosessuale precedente. Questa stepchild adoption per il nuovo centrodestra rischia di essere un grimaldello per di fatto le adozioni tra persone dello stesso sesso. In ogni caso, qui vedremo il dibattito parlamentare. Mi devo concentrare su quello che sta succedendo al sinodo, perché c'è un giallo di una lettera di alcuni cardinali consegnata al Papa e finita sul sito di un vaticanista molto molto importante, Sandro Magister, che già in passato aveva fatto anche degli scoop legati al Vaticano, e è il nuovo VatiLeaks, perché questa lettera firmata dal cardinale Pell è una lettera che critica di fatto il Papa, è una lettera dei cardinali conservatori, finisce di fatto per essere resa pubblica. Il cardinal George Pell, prefetto della segreteria per l'economia, viene intervistato da Repubblica e dice: sì, è vero, ho scritto a Francesco, ma il testo uscito è diverso. E poi innanzitutto penso che una lettera privata debba rimanere tale, senza essere pubblicata. Poi le firme sono sbagliate, soprattutto il contenuto è sbagliato, anzi la maggior parte del contenuto proprio non corrisponde. Non so perché è successa questa cosa e né chi l'abbia fatta uscire così. Ripeto, non so cosa abbiano fatto, forse hanno attribuito firme errate a un testo sbagliato. Quindi adesso c'è anche questo giallo. Il cardinal Pell dice: la lettera io l'ho scritta, è vero, ma le firme in calce sono diverse. Per esempio il cardinal Scola dice: cosa vuole che le dica, io non ho firmato niente. Allarga le braccia con aria desolata, dice al Corriere della Sera, eppure la sua firma appare in calce a questa lettera. Insomma, c'è un giallo in Vaticano. Questo è il sunto di quello che esce sui giornali. Mi interessa invece leggere velocemente alcune notizie. La prima proviene dalla Stampa e riguarda anche molti professori italiani, in realtà. In Francia, racconta la Stampa, aumentano talmente le violenze degli studenti nei confronti dei professori che sono sempre più i professori che si fanno un'assicurazione. Una roba incredibile. Cioè si fanno l'assicurazione, soprattutto gli insegnanti al primo incarico. Si fanno l'assicurazione, corrono ad assicurarsi, e c'è un'inchiesta della Stampa, Flavia Amabile, a pagina 11, per dire che anche i professori italiani vivono spesso in trincea, tra ricorsi, autorigate, sedie tirate in testa. Ma io, per carità, cioè, ripeto, non sono una verginella, so che i giovani sono abbastanza esuberanti, lo eravamo anche noi quando andavamo a scuola, tutti i giovani lo sono. Ma sentite cosa racconta il professor Angelo Petralia, che insegna alle superiori a Milano. Una volta una ragazza mi ha lanciato una sedia e un ombrello perché mi ero rifiutato di mandarla in bagno prima che fosse tornata la sua amica. E dal dirigente scolastico? Niente, indifferenza totale. sono talmente tanti gli episodi come questi che si finisce per lasciar correre. Per noi professore è imbarazzante e significa perdere completamente il controllo della classe. E allora genitori che ricorrono al TAR, genitori che ricorrono alle maniere forti a volte, autorigate, sedie lanciate in testa, ma che è la scuola italiana, o meno parte della scuola italiana, per carità, non tutta, ma sempre più in Francia si assicurano i professori e chissà, forse anche in Italia. C'è molto di cronaca nera, c'è solo tempo per leggere una cosa, che è questa: ricordate Walter Palmer o Walter Palmer? È quel simpatico medico che in Zimbabwe, dentista, che in Zimbabwe uccise il leone Cecil, quest'estate è stato un tormentone. Ebbene, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, Il Giorno racconta, uccise Cecil, prosciolto il dentista, quella foto su Facebook che ha fatto giro del mondo e si è attirato molti odiatori, questo Walter Palmer. Lo Zimbabwe ha fatto tutta un'indagine, ha detto che questo dentista aveva la licenza per fare una caccia al leone. Anche se aveva avuto il permesso per entrare in Zimbabwe solo da turista e non come cacciatore, però gli era stata organizzata tutta una caccia al leone e quindi lui ha cacciato il leone e niente. Questo mi porta alla carta costa, l'articolo più nutrito, un articoletto che viene dall'India, ma è bellissimo, si parla anche qui non di leoni ma di giaguari. È il dramma del giaguaro Salman, messo in foto, un giaguaro ciccione obeso sul giornale, che è stato messo in uno zoo dell'India per procreare, ma lui non gliene frega niente di procreare, vuole magnà e sta lì seduto in un angolo, non risponde, non si accoppia con la femmina. Non è un marito italiano, è il giaguaro Salman, il giaguaro. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Che poi siamo noi due. Caro Oscar Giannino. Buona giornata Alessandro Milan e a tutti i nostri ascoltatori in questo 13 ottobre. E c'è un santo? San Benedetto. Ma perché è fantastico, ma io Oscar lo adoro, perché lui sai, ma tu, ma dimmi un po', ma te li prepari prima, li sai a memoria? Ti spiego perché. No, a memoria non un puoi tempo, saperle. Quando ero piccolo, su molti giornali, nella prima pagina, c'erano i santi del giorno. Oggi è rimasto solo sul Messaggero. Allora, a Avvenire no? Avvenire ovviamente è di Prammatica, ma dico in quelli che non sono della CEI, per così dire. Ecco. Però i miei giornali là c'è rimasto solo sul Messaggero. Allora siccome uno sfoglia il giornale la mattina presto e guardo. Quindi oggi cos'è? San Benedetto, dice San il Messaggero. San Benedetto, saranno contenti a San Benedetto del Tronto, è festa oggi San Benedetto del Tronto. Allora, non lo so, vabbè. Hai pagato il canone della Rai? Questa è la domanda che ti ho fatto il primo giorno, c'è una novità clamorosa. Certo, la stampa ci racconta che siccome hanno deciso, ma non hanno deciso, nella migliore tradizione italiana, nel 2016 il governo ci vuole regalare questa cosa per cui si paga all'inizio col vecchio metodo, ma di meno, e poi si paga euro. Dopo due mesi si paga col nuovo metodo con la corrente. Ma dopo sei mesi, a giugno. A gennaio 50 gennaio, euro. Giugno, è vero. A giugno 50 con la bolletta. Con la bolletta. Poi a dicembre si paga con un terzo metodo. No, probabilmente. Sei arrivato a 100, no, scusa. La lotteria c'è l'estrazione del nuovo metodo ogni sei mesi del canone Rai. Cioè, sarà... tu puoi farci capire che forse non sono prontissimi. Renzi direi è andato che un po' troppo oltre, avanti. Sì, no, davvero, le commissioni tecniche quindi dei ministeri competenti hanno detto: Presidente, sì, ma ci dici tu come si fa? Perché qui ci sono un po' di problemi risolti, come ha detto anche l'Enel. Però non temete. Non temete. Non pagherete tre volte in tre metodi diversi il canone RAI. Pagherete caro, pagherete tutto. Questo. Il mio povero bambino con la candelina accesa. Ah sì, che urla stato. Ma sei riuscito a fargli insegnare stato là? Non ancora, ma quando dirà queste fatidiche parole, che saranno le prime della sua vita, il filmato verrà. Oscar Giannini esulterà, stapperà una bottiglia di spumante. No, dai, povero, per lo povero stato bimbo là. Già bisogna dargli cautela nella vita a questo papaccio che si esatto, esatto, esatto. C'ha un papà così, insomma, non cerchiamo di tenerlo al riparo. Allora, però non è che parliamo del canone della Rai, ma ci ha incuriosito questa vicenda del canone della Rai. Non so, parleremo sicuramente di Marino. Io non lo so se abbia vinto il complotto. Sai che Marino dice ha vinto il complotto, cioè sì. Quel ristoratore che lo accusa dice: mi accusa perché io gli ho fatto togliere i tavolini all'aperto. Ma siamo a questi livelli? Ma non credo proprio, non credo. Cioè, va bene che può capitare tutto in questo paese, però su, dai, non è così. Però certo c'è da dire che i partiti, caro Oscar, un po' nel casino. Che cos'è allora sono, il ristoratore di Firenze che dice che Renzi andava lì con i familiari e Renzi dice che non è vero, anche lui è una ritorsione, ma insomma su. Non lo so, però anche su questa vicenda di Firenze, racconta dei giornali, la Corte dei Conti ci vuole vedere chiaro. Ci vuole vedere chiaro, e mi pare giusto, no? Anzi, finalmente i giornali italiani, che per qualche giorno hanno elegantemente taciuto, per così dire, sono oggi costretti a doverne parlare. Cioè, si indaga sulle cene, si indaga per ora i giornali sulle cene di Matteo Renzi quando era premier, quando era sindaco e presidente della provincia. Per ammontare è non proprio trascurabile. Diciamo. No, infatti, pare spese di rappresentanza di 600.000 euro. Però certamente, insomma, Roma ancora. Ecco, una polemica ancora non chiara, perché di fronte alle contestazioni del fatto qui non ci sono i rendiconti, lui aveva detto: no, è tutto online, e invece le richieste di accesso agli atti sono state negate. Cioè, questo, diciamo, online non c'è per il momento questo, però la Corte dei Conti ora ha aperto un fascicolo e vorrà vederci chiaro. Ovviamente, caro Oscar, parleremo di Roma, avremo degli ospiti tra poco, uno molto importante, poi avremo una sondaggista di Roma. Ti volevo chiedere questo: che succederà, e lo volevo chiedere anche agli ascoltatori, lo vogliamo chiedere, 800 24 00 24, le primarie, ci saranno le primarie, i partiti come si preparano? Ma vedi che questo? I giornali oggi ci dicono che dal no alle primarie, che era attribuito all'inizio a Renzi, perché il nome lo faccio io, poi diventa nel fine settimana, ma che dite, sì alle primarie, adesso diventano terza lettura al terzo giorno le primarie di coalizione, sì. Quindi non sono le primarie del PD che farebbero rimarcare a Roma lo stato devastato del PD, bensì, ma di coalizione, quindi bensì, PD, esatto, Sel... cioè, bensì, Renzi e gli altri sono ammessi benignamente. Infatti, l'idea sì, no. L'idea è governare le primarie, cioè lo possiamo tradurre così, Oscar, metto un nome mio e il resto sono dei cartonati. Sminarle, come dire, dei sminarle, cartonati, cioè delle persone. Sminarle, perché l'esperienza delle primarie aperte per il PD che non ha il controllo dal centro o dalla periferia si è rivelata sempre più problematica. Tutti i sindaci, la maggior parte di loro erano quelli non delle correnti maggioritarie del PD, tutte le esperienze da Milano sono nate così, eccetera. E a questo punto diventa: come si fa a dire di no alle primarie? Allora, di coalizione. Intanto arriva il super commissario, ma sarà Sabella, come ci ha detto lo stesso Sabella all'inizio, ha detto: ma non lo so, io sono un servitore dello Stato. Adesso pare che possa essere Sabella. Ma perché stanno pensando a una squadra all'interno della quale Renzi vuole mettere più figure che potrebbero candidarsi sindaco. Sabella è una di questi. Poi, addirittura. Però pare che ieri ha fatto anche un incontro con Alfano, in cui Alfano dice: no, io metto un prefetto nominato secondo tutti i sacri crismi. Sì. Quindi alla fine, siccome, come è noto, Alfano ha una schiena drittissima e non si piega mai di fronte al Presidente del Consiglio, noto vedere un pochino di ironia in quel... quando mai l'ironia di Oscar Giannini? No, partito granitico di fronte al Presidente del Consiglio. Va bene, questo solo Alfano. Sulle unioni civile è un partito granitico, diciamo la verità. Però insomma non si sa quale supercommissario ci sarà. Io però una domanda ce l'ho, caro Oscar, per te e anche per il primo ospite che tra poco saluteremo, ed è questa: hai letto l'articolo di Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera? Sì, che non ho letto certo. In rassegna stampa. Allora, certo. È governabile Roma? Questo è il punto di domanda che ci siamo fatti. È governabile una città nella quale il patrimonio pubblico, 40.000 case, è tutto archiviato su carta nel 2015, su carta? Ovvio che no, ma quello è lo stato in cui versa la stragrande parte della pubblica amministrazione, non ci illudiamo. Non quello, ci illudiamo. Non ci illudiamo, il che significa che bisogna fare molto, così come non è governabile. Non è governabile Roma sicuramente, perché chiunque arriva e pensa di poter mettere le mani, dove mette le mani? In milioni di atti. Su due tir sono arrivati i faldoni, come dire, ecco qua, il patrimonio pubblico in due, in 130 bancali. Però ti faccio due esempi a caso di quelli che magari ci sono sui giornali di oggi e non vanno in prima pagina. La giudice a Prato, Jacqueline Maggi, che dice: trasferitemi, perché io voglio fare tutte le udienze straordinarie necessarie, sì, per andare avanti con l'arretrato. E il presidente del tribunale, seccato di tutto questo, impedisce. Gli dice: no, bella, tu mi devi chiedere l'autorizzazione, altrimenti te ne vai. E lei dice: trasferitemi. Allora, non ne facciamo scandalo, però questa è la mala giustizia italiana. Oppure, che ne so, il professor Pigozzi che si dimette dalla commissione antidoping dello sport al ministero, dicendo: qui la verità è che non facciamo niente e teniamo gli occhi chiusi. Ecco, come vedi, due esempi dai giornali di oggi. È chiaro, è chiaro. Ma allora, siamo molto contenti di avere una persona che la corruzione la deve combattere tutti i giorni, visto che è presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Buongiorno, dottor Buongiorno, Cantone. Grazie. Essere con noi. Buongiorno a voi. Insomma, Roma governabile, giriamo la considerazione che, guardi, l'assessore Sabella ci ha detto non è governabile, la giriamo a lei, è governabile dalla sua esperienza una città come Ma Roma? Io diciamo non mi arrendo all'idea di dare una risposta negativa, io anzi credo che Roma sia assolutamente governabile, il problema è cambiare un po' il passo, cambiare un po' un sistema che si è cristallizzato di regole, di prassi, di meccanismi, di uffici, così com'è è difficilmente governabile. Il sindaco Marino mi ricordò in una delle prime occasioni che ci vedemmo che lui chiese alla Guardia di Finanza di fare una sorta di indicazione di tutte le partecipazioni che c'erano da parte del Comune di Roma, cioè lui dovette farlo tramite la Guardia di Finanza perché non ci riusciva tramite gli uffici e verificò delle cose divertentissime, nel senso partecipazioni in un albergo, situazioni che veramente avevano nulla a che vedere con la gestione di un comune. Lei ci sta confermando, come ha detto il dottor Sabella, che una parte dei funzionari, dei dipendenti del comune, tanto che il dottor Sabella ha detto li avrei voluti esterni, sono, diciamo così, compromessi, possiamo dire compromessi? Ma io non me la sento di dare affermazioni di questo tipo, ovviamente Sabella conosce la macchina comunale meglio di me. La mia impressione dall'esterno, anche per l'attività ispettiva che abbiamo fatto, è che la macchina comunale romana è una macchina molto molto complicata. E così come il sistema finisce per favorire anche non solo la disonestà ma anche la burocrazia, quella che non vuole fare le cose, perché una realtà in cui ci sono 100 centri di costo, cioè 100 posti che possono fare appalti, è assolutamente ingestibile, in cui si è creato questo meccanismo che i municipi possono fare appalti rilevantissimi fino a un milione di euro. Un milione di euro, sì. Sì, veri e propri piccoli comuni, abbiamo visto che cosa è capitato in alcuni municipi della capitale. Senta Cantone, ma le possiamo fare una domanda? Perché di fronte alla vedendo le occasioni in cui intervenite, Roma, Milano, l'Expo, il Giubileo, e l'idea che vi è stata affidata di dover redigere le tipologie standard di appalti per tipologia di stazione appaltante pubblica e così via, la domanda che mi faccio, può spiegare ai nostri ascoltatori, ma voi ce la fate davvero a fronteggiare tutta questa moneta in più? Ma quanti siete? Come fate di fronte allora, a migliaia di centri sempre di spesa in età? Sì, ce la facciamo sempre con più difficoltà, ma più o meno ce la facciamo e proviamo a dare più o meno risposta a tutti. Ovviamente forse non ci riusciamo quanto ci vorremmo e non ci riusciamo anche nei tempi che vorremmo. Ovviamente il presupposto per potercela fare è semplificare. Noi abbiamo chiesto con forza, il governo, il Parlamento, il governo stanno andando in questa direzione, una scelta di semplificazione delle stazioni appaltanti. Io non credo che si possa arrivare a 200 stazioni appaltanti, ma l'idea che in Italia ci possano essere, così come adesso, 30.000, qualcuno dice 60.000 stazioni appaltanti, non si sa nemmeno quante sono. No, non si sa quante sono, questa è la realtà. Non può andare. Vabbè, vedremo le leggi di stabilità, però le faccio un'altra osservazione. Io mi è capitato... No, vediamo nel codice degli appalti, non nella legge di stabilità, esattamente. Perché quella è la chiave di volta. Ha ragione. Ieri mi è capitato di leggere alcune carte del procedimento che inizia, il dibattimento inizia a Venezia, il processo per le tangenti Mose. In particolare relative all'ex generale della Guardia di Finanza Spaziante, che ha patteggiato 4 anni di carcere e ha avuto una 4 milioni di euro confiscati, però quando leggi le carte vedi che il generale Spaziante usava i sottufficiali e ufficiali della finanza come prestanome per compravendite immobiliari per milioni, comprava barche da 450 mila euro e così via. Stiamo parlando di un generale della finanza, da una parte. Dall'altra, giornale di questi giorni, le inchieste sui diritti televisivi, cioè ciò che regge l'intero pilastro del calcio italiano, con primarie società sportive accusate di reggere in maniera fittizia i loro bilanci, che sono già in perdita, con gare per attribuire i diritti televisivi truccati ab origine. Io sono uno di quelli che ha scritto fin dall'inizio che era evidente che c'era un trucco nella gara e una redistribuzione dei diritti tra Sky e Mediaset, con questa infront di Bogarelli. Vi potrei andare molto avanti, ma lo sa meglio di me. Chi legge queste cronache dell'Italia si può pensare che la risposta sia l'anticorruzione che guida lei? E solo la semplificazione, cioè davvero che cosa non siamo riusciti a capire che va cambiato, perché dovunque c'è questa roba ancora. Guardi, mi faccia però dire che ovviamente le cose che lei dice che sono assolutamente vere, però vanno lette anche in una chiave di lettura diversa, perché la vicenda di Spaziante è ovviamente gravissima, evidenzia diciamo una delle cose più pericolose per uno Stato di diritto, cioè il livello di coinvolgimento di quelli che dovrebbero essere gli organi di controllo. Già. Però mi faccio anche aggiungere che Spaziante, che è stato il vice comandante della Guardia di Finanza, è stato incastrato da un'indagine che è stata fatta dagli stessi finanzieri, cioè c'è una parte dell'Italia che proprio dovere la fa, sì. E noi non possiamo dimenticarcelo, proprio perché tra l'altro queste persone spesso lo fanno anche con maggiori difficoltà. Lei immagini che cosa ha significato diciamo fare una indagine in cui era diciamo indagato il proprio vice comandante, per in cui prestanomi facevano carriera invece. Diciamo facendo una indagine diciamo contro il proprio vice comandante, però facendola, il che significa che in Italia ci sono tanti anticorpi. E poi il tema, la risposta, la domanda che lei fa è che ovviamente è molto pertinente, noi ce la possiamo fare a fare ovviamente una cosa fondamentale, cioè provare a mettere nel sistema gli anticorpi, lavorando sulla trasparenza, lavorando sulla regolarità degli appalti. Io le devo dire che diciamo in una visione ovviamente tutt'altro che ottimistica, però dei segnali li vedo. Noi abbiamo istituito un istituto che si chiama vigilanza collaborativa, cioè praticamente facciamo un sistema di controlli analogo a quelli di Expo, ma siccome non c'è la legge lo facciamo in base a chi ci chiede di farlo, cioè volontariamente. Noi abbiamo la perché non c'è la legge? Ma perché non era possibile, prospettabile pensare che tutti gli appalti in Italia potessero avere i controlli di Expo, però noi l'abbiamo introdotta diciamo come scelta nostra dell'ufficio su una base volontaristica, cioè i grandi appalti, quelli più significativi, se voi ve li volete far controllare noi ci siamo. Ecco, noi abbiamo la fila, abbiamo dovuto dire no. Questo è un segnale, è un segnale positivo, perché io non credo affatto che nella pubblica amministrazione ci sia solo male. No, certo, no. Forse il segnale migliore sarebbe avere la legge. La legge, io ho una curiosità su Roma. Un'autorità con le risorse applicate necessarie. Perché ho una curiosità a cantone su Roma, perché Marino dice è un complotto contro di me gli scontrini, e qui ci sarà la magistratura che accerterà. Ma lei vede che gli altri sindaci pubblicano tutto trasparente sul sito? Controllabile le spese oppure no? No, prima di tutto ovviamente Marino su questo ha fatto certamente una scelta di ulteriore trasparenza, cioè lui avrebbe dovuto indicare le spese, ma è andato, diciamo, ha fatto una scelta di grande trasparenza, però c'è tendenzialmente una maggiore trasparenza negli enti locali. Noi adesso abbiamo una delle, secondo me, delle migliori leggi in materia di trasparenza che ci sono al mondo, il decreto 33, che è una delle leggi Severino, che finalmente stabilisce criteri altissimi di trasparenza, cioè tutti gli enti locali devono avere nel sito una parte che si chiama amministrazione trasparente e devono indicare una serie di... Ma lo fanno? Cioè adempiono questa cosa? In gran parte sì. Noi abbiamo un controllo che facciamo a campione, ma anche su segnalazione, e che anche questo è un altro degli aspetti importanti e utili da dire. c'è un sacco di gente che ci segnala. Questo è un segnale di grande vivacità anche della società civile, perché guardi, certo, Antonio, io me lo auguro, perché io devo dire che da anni a questa parte, quando il MEF ha fatto legge in cui chiedeva la ricognizione delle partecipate di 8.100 comuni, siamo ancora al fatto che mancano i dati dei quasi 40%. È vero che era una legge senza sanzione, quindi i comuni se ne fottevano, però noi, diciamo, questi, i dati che conosco io della compliance, per così dire, volontaria, non sono così sconsideratamente elevati. Io mi auguro che la differenza l'abbia fatta la sua autorità. Allora, in quel caso, viva viva. L'ha fatta anche la legge, ha fatto anche una legge del 2013 che certe cose le ha commesse obbligatorie. Certo, su questo punto noi abbiamo chiesto anche di avere un po' più poteri, nel senso che noi abbiamo un potere importante che si chiama potere d'ordine, cioè se noi verifichiamo che all'interno di un sito mancano dei dati, noi ordiniamo all'amministrazione di fare la sua parte, cioè di pubblicare i dati che mancano. Nel 90% dei casi le amministrazioni si stanno adeguando. Ma è vero che hanno più paura del MES, se ne frega. Noi vorremmo per esempio un potere sanzionatorio. Esatto, questo male. Perché questo lo abbiamo chiesto. Auguriamocelo in questo 2016. Auguriamocelo. Cantone, Raffaele Cantone, la ringraziamo molto per essere stata con noi. Grazie, ovviamente buona giornata. Vogliamo prima della pubblicità dare i nostri Oscar di oggi velocemente? Certamente. Io sono velocissimo. Tre persone che oggi sono raccontate da Repubblica, storie drammatiche: Lucia Annibali, Stefano Savi e Pietro Barbini. Caro Oscar Giannino, sono persone state sfregiate con l'acido, bisogna dirlo così brutalmente. Repubblica le ha messe insieme, le ha fatte incontrare, raccontare delle vite, insomma, difficili, molto in salita, ma coraggiose e di battaglia. Io do il mio Oscar a loro tre. Io il mio Oscar lo do a due colleghi, perché sono quelli che secondo me hanno scritto gli articoli più invoglianti per i lettori, per capire chi ha vinto il Nobel dell'economia: Angus Deaton. Angus Deaton, che non piace molto alla sinistra, invece è un errore, perché questo Angus Deaton è un personaggio al di là della destra e della sinistra, si è occupato di concorrenza, di lotta alla fame, di che come si consumano i redditi e come si formano. E quindi questi due colleghi sono Stefano Feltri sul Fatto e Stefano Lepri sulla Stampa. E due cose ancora. Ancora una bella storia parallela di due donne nate tra due nel 1953, una che va in beppe pensione a 36 anni e una che ci andrà invece perché si è laureata e ha cominciato dopo la riforma della pensione a 67 anni, sempre sulla Stampa anche questo, che però dà l'idea del paradosso di quest'Italia come funziona, per così dire. Ci fermiamo qualche minuto, state con noi, 800 24 00 24, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Siamo qui, 8:43 minuti, caro Oscar Giannino. Tornati. Vogliamo sentire che ne pensano un paio di ascoltatori prima della nostra ospite, Michelangelo da Milano. Buongiorno, Michelangelo. Allora, buongiorno a tutti voi. Ben rientrato Oscar Giannino. Grazie. Ma su cosa interviene tu? Su Roma? Su che cosa? Allora, io sono milanese, quindi di Roma, voglio dire, ne conosco dalle cronache, leggo, eccetera. Che però pensi? Quello che io penso che sia una situazione drammatica, che non so se ho sentito una notizia di due tir Sergio Rizzo oggi su che ha portato tutto l'archivio del patrimonio case comuni, tutto su carta. Io non amo il disfattismo, però uso la parola disastro, quindi vabbè. Comunque, detto questo, quello che mi incuriosisce però è l'aspetto della Stampa. Cioè, io ho visto un accanimento contro Marino a tutti i livelli. Io amo la Stampa anglosassone, quindi non amo una stampa di partito. Ma ti hai insospettato o ti ha semplicemente indispettito? No, mi ha insospettito, perché comunque c'è qualcosa che non va, perché Alemanno ha fatto delle cose peggiori e ha l'accanimento contro Marino. No, ecco, Michelangelo, questo. Perché così diamo spazio anche ad altri. Secondo me, Oscar, un po' di accanimento c'è stato. Lui si è messo nei guai, diciamo, anche con comportamenti goffi, ma l'accanimento c'è stato, evidente. Poi, diciamo, si scatena sempre e si aizza il lettore, l'ascoltatore, quando l'ex potente crolla in Italia. È noto che il giornalismo è chiaro. Dopo il servo encomio fa codardo oltraggio. Cesare da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Io mi attacco un attimo anche a quello che avete detto con l'ascoltatore precedente. E al di là delle idee, al di là dell'accanimento che ci può essere più o meno stato, io voglio dire che ho percepito che in questa situazione, in questa faccenda e vicenda degli scontrini, mi sembra che gli organi di stampa e il giornalismo in generale stiano giocando un ruolo molto importante, quindi io mi sento sollevato e mi sento anche di esortare, se ce ne fosse bisogno, i giornalisti a spingere, perché secondo me se il giornalista che fa del buon giornalismo continua a scavare, magari chissà cosa viene fuori. Ecco, Cesare, c'è bisogno di incitare, per il semplice fatto che ti renderai conto che poiché i sindaci nelle altre grandi città italiane non è vero che rendicontano ciascuna delle spese sostenute con le carte di credito dei soldi pubblici. Ecco, è successo a Marino, Potrebbe succedere in realtà chiunque. Abbiamo saputo, e il fatto è stato l'unico giornale a fare un'inchiesta comparata, gli altri giornali stanno ancora zitti su questo, che altrove la regola non è quella di cui si imputa a Marino di non averla rispettata. L'abbiamo detto, insomma, il fatto da tre giorni racconta di quando Renzi era presidente della provincia e sindaco di Firenze. Ma caro Oscar, vogliamo salutare la nostra ospite, che è il direttore dell'istituto di ricerca Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, espertissima di sondaggi. Buongiorno dottoressa Ghisleri, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, si dice che Marino valga ancora l'8%, se si dovesse ricandidare, a lei risulta e questo 8%? No, non risulta. Ma no, perché rilevare adesso, si può rilevare lo stress che in questo momento i cittadini di Roma vivono con questa battaglia di informazione continua, molto serrata, molto forte. Ma comunque è una rilevazione sotto stress, quindi impedisce realmente di capire quello che può valere un candidato. Interessante. Tra sei mesi non si può sapere. Posso dire una cosa? Perché poi c'è un lungo cammino. Corroborando quello che dice la dottoressa Ghisleri, sta affilata l'informazione che ha fatto titoli e sottotitoli su 8%. Col nostro mestiere dovremmo sapere, però, che non si ci può. Ci dica, lei non è un consigliere di Marino, certo, dei politici, ma è il caso di ricandidarsi per Ignazio Marino? Proprio glielo dico a lei, che è abile a maneggiare i numeri. Allora, intanto bisogna vedere che cosa succede, perché oggi alcuni giornali riportavano il fatto che comunque lui ha dei fan, ha delle persone, dei sostenitori. Intanto c'è su internet, fino a ieri sera c'era una petizione che ha raccolto nell'arco di pochi giorni 46.000 firme per Marino, quindi lui comunque ha un suo seguito. Bisogna vedere da qui alle elezioni quale possa essere il cammino reale, quindi anche quale figura emerge, perché se i commissari che verranno istituiti gestissero tutta la vicenda del Giubileo e riuscissero a sistemare anche quello che è la gestione, facilitandone l'utilizzo proprio della macchina burocratica, allora diventerebbe più difficile, perché dimostrerebbe per lui rientrare, che chi aveva governato prima ha galleggiato. Però c'è anche un problema in particolare sul quale siamo curiosi della sua risposta, perché come si vede c'è un'enorme difficoltà a Roma, che è quella dei problemi del PD, propri dell'esplosione del PD coinvolto nel sistema d'affari a propria volta, rispetto al quale Marino è stato scelto da Bettini come una specie di foglia di fico, poi adesso crolla Marino, ma insomma il PD non è in condizione di fare le primarie di partito. Allora, si parla di nuovo di primarie di coalizione, l'impressione è un po' di vorrelle sminare, perché il segretario del partito, siccome non ha il controllo dei territori, dice io faccio un nome e vediamo cosa ne pensano gli alleati, cosa ben diversa dalle primarie aperte di partito. Lei, la realtà, gli italiani nei sondaggi che lei fa, come e se hanno cambiato idea su questa faccenda delle primarie? Continuano a considerarlo una cartina di tornasole per giudicare la democraticità e l'apertura alla trasparenza dei partiti, oppure nell'epoca di Renzi, viva il grande leader? Come vanno le cose? Allora, se noi prendiamo ad esempio le due primarie di Renzi, quella le prima e la seconda, sempre con Bersani, nella prima votava solo il partito, era molto chiuso, poi hanno aperto non solo alla coalizione ma anche, e ha vinto Renzi. Sì. La posizione era diversa perché la comunicazione aveva aiutato molto ad aprire un grande cammino d'insieme. Sembrava quasi che si eleggesse non il presidente del PD, ma quasi il presidente del Consiglio in maniera diretta, che poi, voglio dire, dopo Letta è stato. Però è proprio il rapporto anche con la comunicazione localmente che si svolge. È una buona parte di inizio campagna elettorale, dove i cittadini si sentono coinvolti in una scelta, perché poi va anche attraverso un mezzo televisivo, perché se non ricordo male vanno su Sky e si confrontano tra di loro, quindi sembra quasi che sia tutto lì. Quindi loro pensano che sia un buon modo per confrontarsi, gli italiani non hanno l'anello al naso, come spesso si vuole far passare, sanno perfettamente che spesso e volentieri ci sono dei piloti automatici che aiutano in una direzione o nell'altra, e comunque chi vi partecipa con uno spirito di solidarietà verso il partito per far emergere il proprio candidato. Sì. Non a caso ci sono candidati anche quindi insomma non sono delusi o disinteressati, non hanno l'anello al naso, è interessante questo. Vogliono partecipare. Questo è interessante. Quando si fanno i focus e si chiede che cosa pensa, se vi dico politica, che cosa pensa, se vi dico politici, la parola più bella è nulla. Beh, ecco. E la seconda è indifferenza, dopodiché c'è una serie di improperi. Ha temperato l'entusiasmo. Poi dopo che nulla, l'indifferenza e gli improperi, arriva che cosa? No, perché c'è, perché poi è il desiderio di poter partecipare alla politica. Invece, quello che appare poi uno scandalo come quello di Roma, pur essendo qualcuno dice che è piccolo, qualcuno dice che è il significato che gli si attribuisce, cioè. La politica, l'uomo politico fa impresa per se stesso e quindi non fa più aiuto. È una disillusione che poi porta molta sempre più gente a non votare. Le chiedo, dottoressa Ghisleri, chi è secondo lei, è vero che mancano sei mesi, un lungo percorso, in questo momento in vantaggio, perché il PD o comunque la sinistra ha le macerie di Marino, il centrodestra si dice che ha le macerie da un bel po' di tempo, non riesce a organizzarsi, è il momento del Movimento 5 Stelle per esempio, oppure è ancora presto per fare... Allora, due livelli. Si vota, quando si vota localmente conta molto la persona, sì. Molto più, diciamo, ha un peso più importante rispetto al partito. Il partito in questo momento che si è messo in evidenza negli ultimi 5 giorni attraverso i media è il Movimento 5 Stelle, che quindi ne guadagna in luce, ma attenzione, ha sempre dei candidati molto meno conosciuti, di cui poco si conosce la preparazione, quindi rimane in difficoltà. Marchini è un candidato sempre presente dalle scorse elezioni ed è una persona trasversale, perché dal suo passato molto legato al centro-sinistra si parla ed è molto più aperto anche verso il centro-destra. Sono i principali attori in questo momento, perché non se ne conoscono altri. Certo. Poi sì, ho letto nomi anche altri ex sindaci, anche ad esempio un giornalista, leggevo Santoro, mi è parso di Santoro. Leggere. Sì, non mi ricordo più se sul non le posso far vedere in radio la faccia di Oscar Giannino. Però hanno evocato anche lui. Hanno evocato, non so quale sia il personaggio. No, ma per carità, va bene tutto. No, io credo che poi i cittadini a questo punto, premesso che vorrebbero un PD di onestà come base, questo e questo è quello che chiedono come base. E poi la competenza, perché come diceva il suo ospite precedente, il problema fondamentale è che una campagna elettorale la si può fare e poi con le tecniche. Ma è chiaro, la competenza a dover mettere le mani poi sui guai che viene il problema. Dottoressa Ghisleri, grazie Alessandra Ghisleri. Oscar, io devo finire, devo farti una domanda. Hai preso il regalo? L'ho preso il regalo, sì. Ti puoi presentare a casa tutto a posto? Mi posso presentare a casa, ma come fai a saperlo? Ma lascia fare il compleanno della moglie di Oscar Giannino. Guarda un po', è vero. Ma è cara Margherita, compleanno è tutto domani a posto. È poi l'anniversario di matrimonio, figurati. Però comunque, senti, la Ghisleri che dice la cosa, la prima cosa è che chiedi agli italiani quando dice cosa ti fa pensare nulla, la migliore è nulla. Poi improperi, ma la prima è nulla. Va bene, dai, ci troviamo domani Oscar alle 8:15. Va bene, grazie Alessandro Longoni. Sì, grazie Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè. Continuate su Radio 24, Oscar. Con Mix 24 di Giovanni Minoli. Va bene, ciao. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...